Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Rappresaglia, rappresaglia, siamo tutti vittime di rappresaglia. Rappresaglia, rappresaglia, siete tutti vittime di rappresaglia. Rappresaglia, rappresaglia, siamo tutti vittime di rappresaglia. Svolgo attività di scrittore e mi ritengo parte lesa di ogni volontà di censura. Sono incriminato per un articolo del codice penale che risale al 1930 e a quel periodo della storia d'Italia. Quel sole che è la lotta del movimento unito, che dal buio della cella non ho visto ma sentito, sentito nel cuore, sì, il vostro amore, la solidarietà con tutto il suo calore, ti possono arrestare. A questo servivano le cesoie. A cosa? A sabotare un'opera colossale quanto nociva con delle cesoie. Non risultano altri insidiosi articoli di ferramenta agli atti della mia conversazione telefonica. Allora si incrimina il sostegno verbale a un'azione simbolica. Concludo confermando la mia convinzione che la linea di sedicente alta velocità in Val di Susa va ostacolata, impedita, intralciata, dunque sabotata per la legittima difesa della salute, del suolo, dell'aria, dell'acqua di una comunità minacciata. La mia parola contraria sussiste e aspetto di sapere se costituisce reato. Scacerato e adesso sono uscito, dice tutto finito, sono libero. L'articolo 530 CPT assolve le luci analitiche da reato di ascritto perché il fatto non sussiste. Rappresaglia, siete tutti vittime di rappresaglia. È stato assolto Harry De Luca. Oh, tutti felici, potete andare al lavoro contenti, allegri. Avevate tutti sospeso le vostre attività per mesi, lo so, eravate lì a dire: domani porto i bambini a scuola o no? Domani vado a fare la partita a bridge o no? Domani la spesa si fa o no? Potete andare tranquilli, Harry De Luca è stato assolto e quindi le vostre vite possono scorrere, fluire tranquillamente, cari amici. Come prima, più sereni, allegri e se tranquilli. Harry De Luca è colui che aveva detto la TAV va sabotata, per questo è stato sottoposto a un processo di un ridicolo che più ridicolo non si può, perché insomma, dai, su, alla fine, dopo un po' di udienze, un bel po' di soldi spesi e un po' di casino fatto, un bel po' di palcoscenici per Harry De Luca, eccolo lì. Gli applausi anche dei suoi sostenitori, alla fine la soluzione. L'errore è che poi appunto si dà il palcoscenico a persone come Giorgio Cremaschi, sindacalista storico, che ieri, proprio lì presente alla soluzione di Harry De Luca, ha detto la seguente frase riportata da Repubblica: non è vero che tutti i lavori portano dignità. A proposito di chi lavora nei cantieri della TAV, ci sono dei lavori dignitosi e dei lavori asserviti. Avete capito? Voi che siete lì nel cantiere della TAV, magari dalle 5 del mattino avete fatto il turno notturno, secondo il sindacalista Giorgio Cremaschi fate un lavoro asservito. Ha servito a chi? Non lo so, ai potenti, alle multinazionali. Dai ragazzi, sono le 6:34 minuti, Lorenzo Nespoli è lì. Sono libero. Peter Bescapè pure in regia. E intanto voglio salutare un uomo che sta a meno uno. Non ti resta che l'amore. A meno uno, Marione Adinolfi, meno uno. Ma che gioca la Champions? E tu invece ti guardi chi l'ha vinto, insomma. Chi è la Champions? Bravo, esatto, la memoria, vedi. quando eri giovane, ti ricordi? La vincevi pure quando eri giovane. Sì, me ne ricordo una a Manchester, per esempio. Una vinta a Manchester, me la ricordo. Quella me la ricordo. A Manchester. Ne abbiamo vinta una a Manchester. C'ero contro Buffon. Ah, c'eri. Dai, te la ricordo, te la ricordiamo così, dai. Finali di Champions della Juve, ti prego. Ero anche all'Olimpico di Roma quando l'abbiamo vista. Vabbè. Una su tre. Vincerla in curva sud per un romano juventino. Ma non t'hanno pestato? Dominavamo, era la curva sud tutta bianconera, era bellissima. Ah sì, con l'Ajax, giusto, con l'Ajax. Bello, rigore. La gioia più grande. Allora. Ah. Oh. Dai, salutiamo una persona ben più interessante di questa simpatica. Eccola qua. Torna, che bello! L'Aurora Lussana, come stai, Aurorina? Buongiorno Milan, un caro saluto a te, un caro saluto agli amici di Radio 24, Sabotatori e Nonna. Sabotatori e Nonna. Vuoi dire subito qualcosa di Harry De Luca? No, tu sai che io sono solo felice che la magistratura si accorga che le norme del codice Rocco, codice fascista, devono essere in ogni modo contrastate, quindi dai, su. Inattuabili come sono, non vanno applicate, quindi non so. Libertà di parola, sai, già nel codice giustiniano si diceva che nessuno può essere incriminato per ciò che pensa, quindi insomma libertà di pensiero, ma di parola, sì, dai. Ma anche tu Marione, ma questo processo, ma vogliamo mettere una pietra tombale? Il processo noi abbiamo pure scritto, insomma, per carità, ho trovato molto dignitosa anche le ultime parole di Henry De Luca quando dice la mia parola contraria sussiste, voglio sapere se è un reato. Questa è una cosa che mi è piaciuta molto, perché di solito insomma in queste cose poi qualche volta qualcuno si dimentica le parole dette. Allo stesso tempo però voglio ricordare, di Aurora qui, che Bossi venne condannata a 8 mesi di carcere per aver detto Terun, roba del genere. Ma come no? A Giorgio Napolitano. Ha ragione. Bisogna capire. No, perché insomma, in questo paese il reato d'opinione esiste solo per i leghisti. Vabbè, siete un po' sporchi, molto e cattivi. Luca, quindi dai. Non vorrei grande scrittore come opinione, che queste opinioni vengano valutate a seconda della provenienza. Questa è una cosa che un pochino mi impressiona. Sì. È un po' così, è vero, ricordiamo 8 mesi a Bossi, a Umberto Bossi, per aver dato del Terun a Giorgio Napolitano. Ma certo, perché in quel paese qui, ripeto, il reato d'opinione vale solo e soltanto per i leghisti. Per alcuni leghisti, per alcuni. No, o gli indipendenti, o i secessionisti veneti, per quelli c'è lesa maestà, o meglio, perché la lesa maestà oggi, che è quando fa anche il Presidente della Repubblica, e non si può. Ci andò di mezzo anche Vilipendio al capo dello Stato, sì, no? E reati d'opinione sono le accuse che muovono sempre. Vabbè, quindi tu dici: simpatizzanti o gli esponenti della Lega. Eccolo qua, un po' di vittimismo. Dai, su, subito. Henry De Luca, buon per lui, ma siamo contentissimi. Intanto da Enzo da Latina ti arriva un abbraccio, cara Aurora. Un abbraccione per Aurora Lussana. Vabbè, questa l'abbiamo smarcata. Basta, Mario, non dobbiamo più parlare niente di Henry De Luca. Cioè, che dobbiamo dire? No, secondo me c'è un tema abbastanza interessante. Eccola. L'elemento della perché si è fatto tutto questo processo, poi dopo è stato niente. Perché si è data un palcoscenico, tu hai citato Cremaschi, ma pure le urla di Giubilo, diciamo, dei sabotatori della TAV. Politicamente li considerano un problema, cioè non è una questione secondaria. In sé, secondo me, stiamo restando, ripeto, secondo me la dignità è la grande prova data anche da De Luca per certi versi, rimane il problema delle cose dette. Cui io non sono d'accordo, diciamo, e su questo mi piacerebbe, insomma, non ci fosse una canonizzazione, diciamo, ecco, è una questione. Poi la questione in sé delle questioni d'opinione è molto molto interessante, ricordo insomma dal punto di vista della riflessione sì. comune. C'è una legge come la legge Scalfarotto, in questo momento approvata alla Camera e che deve essere approvata pure dal Senato, per esempio c'è il cosiddetto reato d'omofobia, sì, detto, no? Sì, sei sì, anni sì. di carcere. Ma guarda, ma su questa notizia, tra poco ti do la notizia che è a pagina 3 del giornale, che secondo me ti rallegrerà la giornata. Beh, caro Mario, cominciamo bene. Te la do io dopo, più avanti. Prima però parliamo un pochino di politica. Allora Aurora Lussana, senti qua Renzi. Certo che Renzi c'ha a che fare con una bella gatta da pelare all'interno del PD, la manovra che è incostituzionale, la manovra, cioè non è che sono critiche che provengono, che ne so, da Salvini, che avevo ospite ieri, ma sentito è andato bene? Sì, dai. Sono dai, promosso? Sì. Anche dai. Oscar Giannino promosso? Sì. No, io dico che ieri mattina è stato interessante. È stato interessante. Prendo il canone e lo metto nella differenziata, così ha detto Salvini. Mi arriva il senso civico. Grande, grandissimo. Mi passa il giovedì mattina. Ma tu lo paghi il canone? Tu che sei sposato con Nicola Molteni lì, onorevole della Lega, lo pagate il canone della Rai? Ma noi non abbiamo neanche l'utenza lo pagate o no? È semplice la domanda. Con le candele, queste cascine. È semplice la domanda, Aurora. Non lo pagavo. Ti ricordi i manifesti della Lega? Paga e taci, somaro lombardo. Non lo paghi. Dai, che noi lombardi paghiamo. Ne abbiamo beccato un altro, amici della Guardia di Finanza. L'onorevole Molteni, amici della Guardia di Finanza. Paga e taci, somaro lombardo. Mina, lo sai anche te che noi lombardi paghiamo tutti. Ma è così difficile pagare, Marione, di così difficile pagare il canone della Rai, cioè, ti arriva. Ah, però anche qui, ancora una volta, un minimo di approfondimento sul tema. Sì. Questa roba assegna alla Rai 3 miliardi di euro l'anno. Va bene. D'accordo. Ora, perché attualmente la Rai incassa 1,7 miliardi dal canone con l'operazione dei 16,66 euro in ogni bolletta bimestrale. La RAI incasserà 3 miliardi. Sì. Questa cosa squilibra completamente il sistema della comunicazione. Questo infatti è il tema, è il tema di cui si discute, no? Invece molti dicono bisognerebbe togliere la pubblicità alla RAI, per esempio, no? Rinunci. Okay, ma io non è questo che mi interessa. Il tema è la leva che va in mano alla politica e quindi all'esecutivo, che può determinare con 3 miliardi di euro, cioè un'infinità di risorse superiori a qualsiasi altro concorrente, la formazione dell'opinione pubblica secondo il desiderio che oggi va a essere di Renzi e domani di Salvini, ma a me sempre non va bene. In mano alla politica quella di poter disporre di 3 miliardi di euro, cioè un'immensità di denari. E questa cosa che non sia un elemento di discussione. No, ma è chiaro, ma è un altro elemento di discussione è che Salvini dice ma che la RAI faccia servizio pubblico. Allora io sono Babbo Natale e mi fa ridere. La cosa in bolletta me lo metti a 50 euro, non accendo. Si pagherà, oggi si è scoperto sui giornali, si pagherà in 6 rate, 16,66 euro bimestrali in bolletta. Non è un passaggio banale rispetto a... No, ma infatti, tanto Aurora, te che ti frega? No, ma è chiaro, Aurora, te che ti frega, tu non lo paghi. Paghiamo, dai Milan, su, lo sai anche te, paese che va avanti, perché noi lombardi si paga tutto. Quindi pagate Tasi e pagate, Tasi e pagate. Però è interessante Salvini che dice se la RAI è servizio pubblico, io sono Babbo Natale ed è sempre il RAI. È stato pure con una della RAI, vabbè, ma questo cosa c'entra? Ospite lo invitano. Magari qualcuno in RAI dirà, prima facci vedere se paghi il canone, prima di presentarti in Rai. Adesso anche te, tu pagherai tutto, perché figurati, sei milanese d'origine, pago il canone della Rai. Non sono felicissimo, non sono per nulla felice, ma fin tanto che c'è, che devo fare? Ma perché te la guardi la Rai? Ma io guardo poco la TV in generale, insomma, guardo il Milan, quindi... Allora guardi le cose importanti, bravo. ecco. No, vabbè, ma dicevo, c'è l'opposizione del PD, l'opposizione interna. Sentite qui Renzi, ieri al TG5 ha detto l'opposizione del PD a volte sembra come Totò all'opposizione, a prescindere. La minoranza del PD è tornata sul piede di guerra. E questa non è una novità, ormai c'è una parte del PD che si oppone, avrebbe detto Totò, a prescindere. E io mago! Vabbè, a prescindere! Cara Aurora, ha qualche problemuccio interno? Vabbè, che deve fare? Ma va dove vuole Renzi, questi qua... Sono cani che abbaiano ma non mordono mai, dai, lo senti te come fanno. Quell'Europa gli ha detto che va tutto bene, e adesso vabbè c'è questa clausola migrante, vulgarmente detta clausola giargianessa, che bisogna capire clausola che possibilità giargianes, gli danno o non gli danno, mia. E qui non si capisce, però... Tu la conosci, Mario, la clausola giargianessa? Ma dove vuoi che vadano questi qua della minoranza? Renzi li ha asfaltati tutti, dai. Su. Questo è vero. Come lo chiami tu l'imperatore, Marione? Ma tu sapevi cosa vuol dire giargianese? No, non la so. Questa. È in gergo un po' così del nord. Sì. Non è un modo, vengono definiti giargianesi. Non è un modo molto simpatico per definire gli stranieri. Sei un giargianese. Vabbè, Adinolfi no, è un autoctono, insomma. No, sì, Adinolfi sì, però insomma. Ma io sono molto più bastardo. Vengo dal meridione d'Italia e dal meridione del mondo, vengo dall'Australia, quindi guarda che è mezzo australiano, mezzo napoletano, esatto. E pienamente romano, quindi è il taccino di nascita ce l'ha veramente tutte. No, però facciamo così, andiamo al traffico, perché poi devo dare la notizia che rallegrerà la giornata di Mario Adinolfi, tra poco. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Quanti saranno gli step children in Italia? Tanto per avere un'idea, sono più degli esodati? I consiglieri comunali vogliono andare a vedere la partita del Napoli gratuitamente. Secondo me, se voi andate a vedere la partita, un Napoli perde, è meglio che state in consiglio comunale. Consigliere comunale, mamma mia, quanto siete miserabili. Mila, sai come passa la giornata davanti alla televisione? Perché c'è un'età quasi 80 anni. A fianco c'ho la sedia, la vaschetta con l'acqua e la spugna. Ogni volta che ci sono i politici ci sputi in faccia e con la spugna pulisco la televisione. Ma se Salvini è un manzo italiano, l'Aurora Lussana cos'è? Cos'ha lei? Miss Manzetta Padana? Manzo italiano, oh, manzo italiano. Hey mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, go, go. La manzetta padana, beh non è male, è una bella manza. Ma sai che io vado a comprare a volte la carne in un posto che si chiama la manzetta lombarda? veramente la manzetta lombarda. Allora, eccomi qua a rallegrare la giornata di Marione Adinolfi. Pagina 3 del giornale, leggilo, c'è tanto di foto, tanto di foto. Non ce la faccio neanch'io. Va in cattedra il docente trans, si veste... Che poi in realtà è un intersessuale. Si chiama, intersessuale, cioè una persona che non ha sesso né maschile né femminile. Intersessuale, ti fa capire cosa vuol dire tenere l'inter, peraltro. Marione, ti sento sbuffante, c'è la storia... È una novità. Io lo dico tutti i giorni, mi dicono sempre l'ideologia gender non esiste, ecco qua, non esiste. Non esiste, ecco, cosa c'entra l'ideologia gender? Questo Michele Romeo è un intersessuale, va vestito da transessuale perché dice la sua natura è quella. Di fisica insegna. E tra l'altro il dirigente della scuola di Udine dice, sai cosa dice Marione? A me interessa una cosa, che insegni bene le materie, punto. Ah, quindi non è un corso di questi, ma è una persona che fa il docente. Ma certo, il docente matematica e fisica in un liceo, al liceo Einstein di Cervignano, in provincia di Udine. Può essere discriminato, figuriamoci il problema, cioè, se fai insegnare fisica, questo è il suo mestiere, ma dopo si sente quello che vuole. Vabbè, però va lì vestito, cioè vedi la foto in gonna, cioè Michele Romeo, quindi immagino alla nascita uomo, gonna. Questi sono fatti suoi, non mi preoccupa questo, mi preoccupano i corsi che nelle scuole vanno invece a insegnare ai ragazzini che esiste il maschio, femmina, l'intersessuale, il... Ho capito, ma cioè lui è un intersessuale, cioè quando gli chiederanno ma scusi maestra, ma lei, professoressa, ma lei è... Professore, è donna, è un mi uomo. Piace l'idea che sul documento ci sarà scritto secondo io la lei. Qui, ma non credo che ci vabbè saranno. sai che in Francia c'è il primo che ha avuto diritto del giudice di essere definito senza sesso, proprio intersessuale. Sì, in Italia no, in Italia no. Sul suo documento ci sarà scritto. Succederà prima o ma poi no, ma deve insegnare la fisica, deve insegnare fisica, è preparatissimo, probabilmente ha anche un dottorato in nanotecnologie e se fa bene il suo mestiere basta va bene, dai, non ti ho rovinato allora tantissima giornata. Pensavo di peggio. Il Papa che scrive con una lettera peraltro prestampata che spedisce un po' tutti al leader delle case occupate a Roma, Tarzan. Avanzetta, bellissima, Tarzan. Quella ti piace? La è arrivata a tutti quanti, solo a me non voglio il prestampato pure io. Forse dovrei scrivere io al Papa. Anch'io non ho tu, Lussana Aurora, ti ha mandato una lettera al Papa. Perché scrive a tutti. Allora, io vivo come Parlamento. Il Parlamento scrive al Papa per una benedizione. Magari allora, io vivo a Cantù, sì, arcidiocesi di Milano, provincia di Como. Quindi tu scrivi io al tuo cardinale. Il mio arcivescovo. Oh mamma mia, e sopra l'arcivescovo chi c'è? Vai un po' più su. Rita Ambrosiano. Sì, ma vai un po' più su, sopra l'arcivescovo chi c'è? C'è lui, Roma? L'infallibile che parla ex cattedra, Papa Francesco, l'infallibile. E allora potresti scrivergli. Va bene, ma devo farvi sentire questo, soprattutto Aurora, non so se la prenderà bene, ho rovinato un po' la giornata, ma poco, a Maria Di Nolfi, e allora vorrei rovinare un pochino la giornata anche Aurora Lussana. La scena è questa, Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, si presenta all'Expo e gli danno in mano una mela lombarda e De Luca la mangia e poi succede questo, sentite. L'accetti, è una mela biologica lombarda. È buona o no? Io le auguro che le mele della Campania siano a quel livello lì. Ci sono già, dove la devo sputare? Dove la devo sputare la mela lombarda, eh? Qui c'è grande tensione, cara Aurora. Ha fatto un po' la gentugola che critica tanto. Si mangia probabilmente solo la mela nurca, la mela campana. Appunto. Ma probabilmente mangerà solo la nurca e non mangerà le mele delle... la Valtellina, va bene così. Viva De Luca, viva De Luca. Vabbè, che vi devo dire? Sai che me le mangi, Milan? Io le mele, non so, anche del Trentino, per questo. Ah, sì? Della Val di Non, va benissimo le mele adesso, le mele, non è che sto lì, le mele. Tu, Marione, che mele mangi? Ma che mele? Io bucatini e basta, la frutta fa male. Ma quanto mangi di pasta? Tanto. No, in genere, so. Il pacchetto, come le sigarette, no? Il pacchetto, via e basta. Ma per pranzo, cioè mezzo chilo? Solo pranzo, io non cino, per esempio, ho questo vizio. Quindi pranzi e basta. E quant'è mezzo chilo di pasta, no? È bello, no? Cioè, mezzo? Lasciarla avanzato fa male alla salute, per cui non vuol dire non c'è il fisico. Porca, mezzo che è la pasta migliore è bucatini. Anzi, il perciatellino, per fare tutto anch'io sono quello. Il perciatellino è un bucatino un pochino più piccolo che fa in Abruzzo. Vabbè, la ricetta ce l'ha fatta lui stavolta. Il perciatellino d'Abruzzo. No, vabbè, non c'è tempo per la ricetta perché sennò ci sfumano, cara Aurora. Comunque, mele lombarde e perciatini d'Abruzzo e perciatellini d'Abruzzo. Questo mettiamo tutto insieme e facciamo la ricetta. Vi devo salutare e ringraziare Maria Di Nolfi e la sua La Croce, c'è sempre online, e Aurora Lussana. Grazie, alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Sono le 7:20 minuti, ci siamo anche oggi per la rassegna stampa, cari ascoltatori. Più avanti con Oscar Giannino dalle 8:15 parleremo di questo giallo che c'è anche sulla legge di stabilità, sui nuovi punti del gioco d'azzardo legalizzato. Perché anche oggi sui giornali c'è molto di questo, due giornali aprono su questo tema, ne parleremo con il vicepresidente del Sistema Gioco Italia, cioè la Confindustria del Gioco, Massimiliano Pucci, e ne parleremo con Maurizio Fiasca, un sociologo esperto di queste tematiche. Saranno i nostri microfoni, ne parleremo più avanti, ma intanto andiamo a leggere i giornali. In questo martedì 20 ottobre sono dedicati molto molto ancora alla legge di stabilità. Il Sole 24 Ore apre con il forum che c'è stato con il ministro all'economia Padoan nella sede del Sole 24 Ore. La pressione fiscale cala al 42,4%, ora preoccupa l'inflazione bassa. Questo è il titolo di prima pagina, è una delle dichiarazioni del ministro. E poi la legge di stabilità. Il sì che sarebbe già arrivato, o comunque si profila un sì da parte dell'Unione Europea. Corriere della Sera, l'Unione Europea non ferma la manovra. Per Repubblica, l'Unione Europea annuncia il sì alla manovra, ma è battaglia. La Stampa, Bruxelles verso il sì alla manovra. L'Unità, via libera da Bruxelles. Il Messaggero invece, statali meno fondi e assunzioni. Ci sono due giornali appunto poi che aprono sul gioco d'azzardo legalizzato. Sono il Manifesto, che mette Renzi e Padoan in foto, il titolo è I biscazzieri, mentre Avvenire, azzardo è ricondono, nuovo sconto ai centri scommesse illegali. Poi invece c'è una notizia clamorosa, esclusiva sul Fatto Quotidiano: Banca Italia indagato Visco, il governatore di Banca Italia. Le accuse dei PM sono corruzione, truffa, abuso d'ufficio, un'inchiesta sul commissariamento e la vendita della Banca Popolare di Spoleto. Ma vedremo più avanti, intanto voglio subito partire a leggere alcuni articoli, ce ne sono tanti che vorrei citare oggi. A cominciare da Ignazio Marino, che torna protagonista con i suoi scontrini, è andato in procura a parlare 5 ore per spiegare in sostanza quello che si legge sui giornali. Le spese dubbie, la mia firma è falsa. Così Ignazio Marino si difende. Vede, dice al procuratore, come racconta Repubblica con Maria Elena Vincenzi e Giovanna Vitale a pagina 21. Vede, la mia firma è questa. Può vedere lei, al procuratore, in maniera evidente che non è la stessa firma in calce a quei giustificativi. Non sono autentiche, si può facilmente rilevare a occhio nudo. E ancora, su una cena del 27 luglio 2013 alla Taverna degli Amici, non ero con mia moglie, come ha detto quel ristoratore, ero con una mia assistente del comune che fisicamente assomiglia molto a mia moglie. La mia famiglia era fuori Roma. Su questo Libero critica Ignazio Marino dicendo: davvero a grande fantasia, era un assistente che assomiglia a mia moglie e non mia moglie a cena quel giorno, ecco perché abbiamo pagato coi conti del comune. E poi ancora, non sono stato io a chiedere la carta di credito istituzionale, non sono stato io a sollecitare l'aumento del plafond da 10.000 a 50.000 euro, non sono stato io a compilare i giustificativi delle cene. Alla domanda è: ma scusi, chi ha messo queste firme, chi ha sbagliato? Non sono in grado di dirlo. La mia agenda, che non è quella cartacea ma in formato elettronico, è a disposizione di almeno 50-60 persone. Insomma, scrive Repubblica, tutti colpevoli, nessun colpevole. Questa sembra la linea di Ignazio Marino, che scarica sulla segreteria particolare le colpe per quello che sarebbe successo. Questo almeno è la vicenda di Ignazio Marino. 5 ore dai PM, titola anche il Messaggero a pagina 6, dubbi sulle cene, ora rischia l'iscrizione nel registro degli indagati. Tra l'altro lo stesso sindaco di Roma, perché lo è ancora di fatto sindaco di Roma, dimissionario, che dice: non voglio fare la fine di Alemanno, l'obiettivo è questo, non voglio l'indagine, Non voglio essere confuso con quei ladroni. Si sfoga così il chirurgo dei Dem. Io sono una persona onesta. Se mi indagano mi metteranno nello stesso calderone con Alemanno e compagni, quelli che per anni si sono mangiati la città. Questo è il motivo che spingerebbe Ignazio Marino a voler fare tutta la chiarezza sugli scontrini. 5 ore in procura, la domanda è indagato, la risposta al momento non si sa. L'avvocato smentisce, la procura non conferma. Invece chi è totalmente assolto perché il fatto non sussiste è Harry De Luca. Alla fine tutto questo processo sulla TAV va sabotata, è finito in un nulla di fatto, è finito in una soluzione. Sabotare la TAV è democratico. Ancora Harry De Luca, è caduta l'accusa di istigazione a delinquere contro lo scrittore. Soddisfazione. Un'unica intervista rilasciata al Manifesto, Eleonora Martini chiede: allora come va De Luca? Beh, per mio temperamento sono sempre preparato al peggio, ma in questo caso i pronostici erano impossibili perché si è trattato di un processo sperimentale. Nessuno scrittore era mai stato incriminato prima con questo arnese del codice fascista, cioè l'istigazione che risale al 1930. Intervista a Harry De Luca la trovate a pagina 5 del Manifesto. Alla fine si toglie anche un sassolone nei confronti di Renzi quando dice De Luca: il presidente francese Hollande ha detto che si è tirato fuori da questa storia, come se avesse detto una condanna di questo tipo non è concepibile per noi. E però, chiede il Manifesto, in realtà Palazzo Chigi ha smentito di avere sentito in una telefonata il presidente Hollande, ha smentito il merito e le circostanze della notizia di questo colloquio. E sentite la risposta di De Luca: negare l'evidenza è uno degli stati dell'ubriachezza. Ma tra Renzi e Hollande io credo al presidente francese, ovviamente. Dunque Renzi nega come un ubriaco, questo è l'assunto anche della posizione di Harry De Luca nei confronti del Presidente del Consiglio. Certo, quello che mi ha disturbato, poi ne parlerò anche con Oscar Giannino, se vorrà, mi ha disturbato molto leggere nelle frasi trionfalistiche dopo la soluzione di Harry De Luca in tribunale. Sentite questa frase di Giorgio Cremaschi, ex sindacalista della CGIL, che è salito fino a Bussoleno per festeggiare, e fin qui ci sta se vuol stare vicino a Harry De Luca. Però sentite cosa dice a proposito di chi lavora nei cantieri della TAV. Chi lavora nei cantieri della TAV? Gli operai, quelli che hanno scritto a De Luca dicendo: venga a trovarci, venga a capire cosa vuol dire lavorare in un cantiere. A parte che De Luca dice quelle firme, quella richiesta è falsa, firme false. Vabbè, ma sentite Giorgio Cremaschi, ex sindacalista CGIL: non sono mai stato d'accordo con chi dice che il lavoro basta che ci sia. C'è lavoro e lavoro. C'è il lavoro che promuove la dignità delle persone e c'è il lavoro asservito. Ecco, secondo il sindacalista o ex sindacalista, ma sindacalista nell'animo, immagino che lo sia per sempre, della CGIL, Giorgio Cremaschi, il lavoro nei cantieri della TAV evidentemente è un lavoro asservito, che non porta dignità delle persone. È stato sindacalista, mamma mia. Che dire, andiamo a questa notizia su Libero. Incassa per anni la pensione di un morto, ma i giudici gli danno ragione. È successo a Treviso, un trevigiano di 69 anni per anni ha incassato la pensione della mamma morta. Alla fine si è portato via 37.000 euro non dovuti, eppure il giudice lo ha assolto, tutto è andato in tribunale, perché non era compito suo l'obbligo di denunciare il decesso all'INPS. E vabbè, e su questo magari dal punto di vista della legge, però quando incassava la pensione della madre morta se ne sarà accorto questo signore di 69 anni che si è fregato bellamente 37.000 euro non dovuti. È truffa aggravata nei confronti dell'INPS. E invece l'uomo in primo grado è stato condannato a 2 mesi e 20 giorni di reclusione, in appello è stato assolto perché non era lui tenuto a denunciare il decesso della madre all'INPS. Evviva, evviva, ma eccoci qui l'articolo che mi fa più incazzare di questa giornata. È un articolo che troviamo in prima pagina di Libero e viene da Genova, dove c'è un signore, magrebino del Nord Africa, nazionalità non specificata, che è stato beccato per fare una serie di reati diversi, accusato di lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale, minaccia aggravata, rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale, un violento conclamato, insomma, senza occupazione per di più, un individuo che le forze dell'ordine hanno ritenuto socialmente pericoloso e per questo la questura è arrivata all'espulsione, o meglio la revoca della carta di soggiorno, il maxi permesso a tempo indeterminato concesso a chi vive in Italia da tanto tempo. Dunque, il espulsione, delinquente ma fa ricorso, ha due figli e quindi delinquente ma tiene famiglia. Ecco la carta di soggiorno all'immigrato. Nordafricano accusato di una sfilza di reati, ma siccome ha due figli minorenni, il tribunale gli restituisce il documento che evita l'espulsione. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. State ascoltando un programma offerto da ADP, leader mondiale nella gestione del personale. Milan, il cagnasso, vantaggio dell'informazione. Oh, questa mi mancava da un po', questa mi mancava da un po'. Allora, cari ascoltatori, intanto buone notizie, pare dall'Unione Europea, non è ancora una notizia confermata al 100% ufficiale, ma secondo fonti l'Unione Europea è pronta a dare il via libera alla manovra di stabilità, alla legge di stabilità del governo italiano. L'Unione Europea non ferma la manovra, vi segnalo l'articolo di prima pagina del Corriere della Sera di Federico Fubini che racconta che durante tutta la preparazione della legge di stabilità il ministro Padoan non si è occupato solo delle coperture finanziarie, ma ha capito e ha cercato di capire fino a che punto può spingersi l'Italia in Europa. Infatti per settimane Padoan ha avuto scambi di idea con Valdis Dombrovskis e Pierre Moscovici, i due commissari europei che condividono una coabitazione nel centrale, della centrale di vigilanza sui conti dei governi. Dombrovskis, centrista di 44 anni, che come premier fino al 2014 ha guidato la Lettonia, mentre Moscovici è un navigato socialista parigino fino al 2014 ministro delle finanze in Francia. E dunque Federico Fubini scrive: Padoan ha tenuto i contatti con loro. Certo, però, lo stesso Fubini scrive: la partita con Bruxelles è soltanto rinviata, non è ancora vinta del tutto. Quindi, se l'Europa dice in qualche modo è orientata, meglio a dire sì, c'è invece la maggioranza del PD alle prese con la minoranza del PD, con la minoranza del PD capitanata da Bersani, che ha definito incostituzionale in alcuni passaggi la manovra, pronta a dare battaglia. E questo è il solito retroscena che racconta Goffredo De Marchis a pagina 2 e 3 di Repubblica. I dissidenti dicono: cambieremo in Parlamento questa legge di stabilità, e il premier risponde, ovviamente non frasi ufficiali ma sottotraccia: e io metto la fiducia. La verità è che l'unica frase ufficiale, Renzi l'ha detta al TG5, ed è quella: la minoranza del PD ormai si oppone, come direbbe Totò, a prescindere. Renzi all'attacco della sinistra Dem, come Totò contro a prescindere, anche il titolo più gettonato lo trovate sul Messaggero a pagina 4. Questo per la legge di stabilità. Tra l'altro, a proposito di Renzi, sapete che c'è la grande curiosità per il nuovo Airbus che è arrivato, che dovrebbe portare lui e tutto ovviamente il seguito di persone che vanno con lui a partire da giovedì in un viaggio istituzionale all'estero. In realtà questo Airbus resterà a terra, Airbus cui ci sono state polemiche intanto per l'acquisto, ma resterà a terra perché raccontano sia Repubblica che Il Fatto Quotidiano: l'Airbus resta a terra, Renzi rinvia il debutto per lo stop sicurezza, partenza per il Sud America senza il nuovo velivolo, l'ipotesi del noleggio Etihad con un equipaggio emiratino è l'idea secondaria. Comunque niente da fare, racconta Francesco Bei, il debutto del KG1, così come è stato ribattezzato dopo l'Air One, KG1, è rimandato. Il nuovo Airbus A340, preso in leasing in primavera, avrebbe dovuto decollare per la prima trasferta giovedì, destinazione Cile, Perù, Colombia, Cuba, missione importante per Renzi, che ha invitato con sé un centinaio di top manager italiani per aprire nuovi mercati. Ma da Palazzo Chigi trapela l'idea che non siano stati ancora completati i protocolli di sicurezza e dunque non dovrebbe decollare. Vabbè, decollerà la prossima volta, che dobbiamo dire. A proposito di politica e legata alla legge di stabilità, c'è il canone della RAI. Oh, novità! Il canone della RAI si pagherà così, in 6 rate da 16,66 euro nella bolletta ogni 2 mesi. Questo a partire dall'anno prossimo, cari ascoltatori. Ieri qui Salvini ha detto: io quando mi arriva il canone della RAI lo prendo e lo butto nel cestino. Tutto ciò finisce sui giornali. Insieme a Salvini c'è anche Fico, presidente della commissione vigilanza RAI. Salvini e Fico, quelli del no al canone RAI. Pagina 6 del Corriere della Sera, con Giovanna Cavalli che fa mezzo articolo dedicato alle dichiarazioni di Salvini qui con me, Oscar Giannino, ieri, senza citarci, va bene, ringraziamo anche Giovanna Cavalli. E comunque insieme a Salvini c'è anche Fico, presidente commissione vigilanza RAI, che dice la RAI non è imparziale e quindi non bisogna pagare il canone. Risponde il sottosegretario Giacomelli dicendo: trovo molto grave che inviti una persona che ricopre un'istituzione a compiere un reato. Comunque, al di là delle polemiche politiche, la nuova bolletta è questa: conto in 6 rate da 16,60 euro a ogni rata bimestrale. Questo è come verrà pagato il canone. C'è anche tutta la polemica invece nella legge di stabilità su, appunto, i nuovi centri, le nuove 22.000, diceva ieri il Corriere della Sera, sale bingo che potranno sorgere, sale slot machine. In realtà c'è stata la precisazione del governo ieri in serata, dicendo che non sono assolutamente nuove licenze, ma sono vecchie licenze in scadenza che vengono messe a gara e dunque non si tratta di 22.000 nuovi punti dove c'è gioco d'azzardo legalizzato, ma c'era esattamente la polemica in prima pagina del Manifesto, ma la polemica anche su Avvenire. Centri scommesse, arriva la sanatoria bis, è una nuova sorpresa, invece racconta Antonio Maria Mira riguardo al gioco d'azzardo legalizzato. Riaperti i termini del condono del 2015, perché l'anno scorso già si parlava di redenzione, alternativa era la chiusura per chi non aderiva a quella da sanatoria, ma visto che aderì meno di un terzo delle 7.000 sale considerate illegali, ora si riprovano alle stesse condizioni, insomma si riapre una nuova sanatoria. Insomma, su questo tema, il tema dello Stato biscazziere sì o no, ci concentreremo. Come ci concentreremo? Se volete, ancora c'è la polemica sull'innalzamento della soglia del contante da 1.000 a 3.000 euro. Faremo sentire anche il ministro Padoan, che ieri al Sole 24 Ore nel forum ha detto: ho cambiato idea rispetto a un anno fa. Effettivamente c'è un audio che circola di lui che ha cambiato idea. Diceva che all'epoca di un intervento in Parlamento che la soglia da 1.000 euro era una soglia migliore e non era giusto alzarla, ma lo stesso ministro ha detto: ho cambiato idea, si può, perché mi sono convinto invece del contrario. Su questa vicenda della soglia del contante, oggi invece sul Fatto Quotidiano parla il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, che dice: è sbagliata questa norma, anzi sbagliatissima, dice Roberti. Si favorisce così l'evasione fiscale, la circolazione del nero, si danneggia la lotta al riciclaggio di denaro frutto di reato. Parlo di attività come gli strozzini in concorrenza con le banche. L'usura è rischiosa perché prima o poi l'usurato può denunciare tutto. Chi spende 1.000 euro a botta cash? Chiede Roberti. E comunque basterebbe incentivare l'uso della moneta elettronica, e l'uso delle carte si incentiva certamente, Roberti dice, abbassando il costo del loro utilizzo, riducendo le commissioni. Bisogna però fare i conti con le banche e qui il capitolo si complica. Insomma, la vicenda però rimane ben importante, è uno dei temi, mi sembra di capire, con cui si è affrontato l'incontro con il ministro Padoan, che è l'apertura del Sole 24 Ore oggi. Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Sì, sì, confermo che il ministro non solo ha pronunciato appunto la frase, ha cambiato idea, ma ha anche detto, dice poi una cosa importante, trovo che la discussione sia sproporzionata rispetto all'impatto della misura. Così spiega il ministro Padoan insieme a molte altre cose oggi nelle pagine 2 e 3 del Sole 24 Ore. Ti segnalo ad esempio, annuncia per il 2016 una revisione delle tax expenditures. Tu rimani così, sarebbero gli sconti fiscali, ma bisogna sempre dirlo un po'. Non l'abbiamo fatta questa volta, c'era stata una scelta politica di non intervenire, però nel 2016 conta di intervenire, dice la questione è molto complicata, vogliamo fare nel 2016, ma è tutta da leggere questa intervista a pagina 2 e 3. Volevo proporti un affare, ci compriamo una Ferrari in società? Ma come no? Però non la macchina, Ale, perché non ce la faccio, e forse neanche tu se metti i 2 eurini, magari ci compriamo un'azione della Ferrari. Se tu leggi, come devi doviziosamente fare, le pagine di finanza, scoprirai che domani debutta appunto la quotazione della Ferrari. Siccome verrebbe via tra 48 e 52 dollari, leggo dalle pagine di finanza, sì, forse ci mettiamo in 2, tu sempre 2 eurini metti, eh? Sempre quelli. Taccagno che non sei altro, vabbè. Non è che ti ha scritto il fisco? Ti ha scritto l'agenzia delle entrate? No. Ti ringrazio, oggi vado a casa e apro la casella della posta, ti faccio sapere. Va bene, finora alle 7.45 no. Non ti ha ancora scritto, va bene, allora non so se lo farà o meno, comunque sono 220.000 lettere. Lo apprendi dalle pagine, dillo tu che mi fa piacere, bravissimo, che tu leggi sempre religiosamente, benissimo, ha scritto appunto 220.000 contribuenti che hanno presentato la precompilata, hai presente? Dichiarazione precompilata di quest'anno, perché non tornano appunto i conti con quello che risulta all'Agenzia delle Entrate, quindi chiede delle spiegazioni. C'è tempo poi per rimediare, ma ti spieghiamo tutto nelle pagine di norme e tributi. Oh, ti volevo anche dire una cosa importante, cioè che continuiamo la guida alla manovra, guida alla disegno di legge di stabilità, oggi parliamo di imprese, spero che tu per l'occasione ti sia messo la cravatta, o sì, comunque insomma sia in ordine, perché sai che bisogna presentare questo disegno di legge di stabilità sempre con molta attenzione. E poi ti segnalo, caro Alessandro, che oggi è martedì. Condominio! Molto bene. E allora, sulla pagina di condominio, tra l'altro, il trattamento nel caso in cui è malaugurato il portiere si ammali, non il portiere, il tuo portiere, che ho letto che ha un po' di problemi, ma la tua squadra di calcio. No, il portiere proprio del condominio, e anche la questione del condomino che non paga, del condomino moroso, che adesso bisogna passare dall'amministratore per poter esercitare poi la rivalsa su di lui. Tutto questo e molto altro sul Sole 24 Ore, e per intanto, caro Alessandro e cari ascoltatori, traffico! Stufe, caldaie e termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Alessandro Milan, il Rossello Brescio dell'informazione. Oh, è tornato, un grande abbraccio alla nostra amica Rossella Brescia. E allora, cari italiani, c'è questa notizia che è esclusiva sul Fatto Quotidiano, è il titolo di prima pagina ed è una notizia abbastanza clamorosa. Banca Italia, indagato Visco, cioè il governatore di Banca Italia. La notizia poi è raccontata a pagina 2 da Marco Palombi. Popolare di Spoleto, Visco sotto inchiesta per truffa. Certe volte grandi sconvolgimenti arrivano da dove meno te lo aspetti. Questo per dire arriva da Spoleto. Notizia clamorosa in sé. Il governatore di Banca Italia, Ignazio Visco, da settembre è indagato insieme a 7 amministratori vigilanti della Popolare di Spoleto dalla procura di quella città per reati pesantissimi. Si va dalla corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, truffa al solito abuso d'ufficio, l'infedeltà a seguito di dazioni o promessa di utilità. Queste le imputazioni. Già, ma qual è il contesto? Il contesto è un'inchiesta sul passaggio della Banca Popolare di Spoleto al Banco di Desio e della Brianza, deciso durante un commissariamento voluto da Banca Italia, poi giudicato illegittimo dal Consiglio di Stato. Ovviamente i soci di Popolare di Spoleto, che si sono visti azzerare il valore della loro partecipazione, non hanno gradito la cosa, visto che la ritengono una svendita, e a decine hanno presentato la procura un dettagliato esposto firmato dall'avvocato Angeletti. Qui è l'inchiesta, la notizia è l'indagine e le accuse tra gli indagati, soprattutto una persona dal ruolo molto importante, il governatore di Banca Italia, Ignazio Visco. A proposito di indagini, finisce invece nel tritacarne delle indagini di Mantovani, vicepresidente della Regione Lombardia arrestato, Silvio Berlusconi. La notizia c'è solo sul Corriere della Sera con Luigi Ferrarella. Ecco che spuntano le nuove intercettazioni con Berlusconi al telefono. Questa non si è mai sentita negli ultimi 20 anni. Berlusconi intercettato al telefono. Parla con Mario Mantovani, è il 22 dicembre del 2013, si parla di un politico, Alan Rizzi, che era capogruppo di Forza Italia nel Consiglio Comunale di Milano, ma voleva lasciare Forza Italia per andare al nuovo centrodestra, anzi lo ha fatto, ma poi dopo 2 giorni è tornato a Forza Italia. E cosa è successo in questi 2 giorni? Secondo il Corriere della Sera c'è stata questa telefonata di Berlusconi a Mantovani. Senti una cosa, hai sentito che ho ottenuto Rizzi? E Mantovani resta interdetto. Ma io non l'ho più sentito. Ecco, guarda, dice Berlusconi, te lo dico io, non è andato di là, cioè nel nuovo centrodestra, ed è rimasto con noi, ma io gli ho fatto una promessa, un posto di lavoro per il fratello. Va bene? Va bene, a presto, dice Mantovani. E racconta il Corriere della Sera, effettivamente un paio di mesi dopo, Richard Rizzi, fratello di Alan, diventa un membro di una società partecipata a 2A e metropolitana milanese. E il 13 maggio il fratello di Rizzi viene in effetti nominato sindaco di metropolitana milanese. Dunque il Corriere della Sera racconta: Berlusconi intercettato, ha lasciato il nuovo centrodestra per noi, dai un lavoro al fratello. Questa è l'intercettazione con Mantovani. Mamma mia, quante cose da leggere e niente tempo. Oh, beh, c'è da dire che forse lasceremo le truppe italiane di più in Afghanistan. Lo ha detto anche Obama per le truppe americane e pare che Renzi voglia fare la stessa cosa, il governo italiano, per le truppe italiane. Maria Teresa Meli racconta a pagina 16: Renzi e le truppe in Afghanistan, le mosse per ampliare il consenso, ne avrebbe già parlato col capo dello Stato Mattarella. Domani ci sarà poi il Consiglio Supremo di Difesa, in cui in quell'organismo ufficiale dovrebbe essere ufficializzata questa idea. Formalmente non c'è bisogno di un voto del Parlamento per decidere il prolungamento o meno della nostra missione. Certo, c'è il rischio da parte di Renzi, deve aumentare il consenso per il rischio di non aprire un nuovo fronte, soprattutto all'interno del suo stesso partito, ma l'idea è quella di mantenere di più le truppe in Afghanistan. C'è da dire in 30 secondi che c'è questo, non dico giallo, ma insomma forse hanno tirato un po' il Papa per, come si chiama il suo vestito, non lo so, il vestito. Comunque il Papa cade nella trappola, benedice gli occupanti con 2K, occupanti, è il giallo, non il giallo, ma insomma questa lettera che è arrivata dal Vaticano, ma non dal Papa, sono lettere che vengono un po' mandate a chi le chiede, di lettere di sostegno, di incoraggiamento, dal Vaticano al leader degli occupanti delle case a Roma, Tarzan, così come viene chiamato, ex consigliere comunale Alzetta, Andrea Alzetta. Il Papa scrive a Tarzan: case, giusta battaglia. Eccolo qua, c'è sulla Stampa, c'è sul Giornale, c'è un po' ovunque, e allora c'è questo giallo. Vabbè, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Eccolo qua, una pagina di Repubblica che racconta perché in tutto il mondo più o meno papà e mamma si dicono più o meno uguali in tutto il mondo: mamma, mom, mammi, ma papà, papà. Ma chi se ne frega! Il segnale orario vi è offerto da Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta... Ladies and gentlemen, and now, Alessandro Milan and Oscar Giannino! Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocuis e separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui noi due, caro Oscar. Eccoci qua, caro Alessandro. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori e a tutti coloro che siamo in Irene, Santirene del Portogallo. Irene, ho un'amica che si chiama Irene, quindi auguri. Auguri. Ma ti ringrazio perché mi ricordi ogni mattina chi puoi mandare un SMS. Vedi, ha una funzione. No, ne abbiamo tante, ma questa è una delle tante. Assolutamente. Allora, caro Oscar, stavolta faccio io il tuo ruolo, ma lo sai che lo Stato ha sempre bisogno di soldi? Ma va, ma guarda, e quale considerazione ti ha indotto questa aurea saperla di saggezza? Ma no, ma perché cercheremo di capire oggi, c'è questo giallo nella legge di stabilità, se davvero lo Stato vuole aprire nuove sale per il gioco d'azzardo legalizzato. Perché adesso nega. Adesso negano. Però per di solito da anni e anni così ha fatto. Cioè la domanda è, ma lo Stato è biscazziere come oggi titola il manifesto? Sì, la risposta a questa domanda tecnicamente è sì, visto che ci fa 10 miliardi di euro l'anno e quest'anno forse 15. No, ma su questo effettivamente non c'è dubbio, cioè perché lo Stato apre nel caso cose di sale di gioco d'azzardo legalizzato? Per poi far metterci le tasse e guadagnarci dei soldi. Cioè, perché lo Stato non è questa roba etica che dipingete voi che lo amate tanto, quando dite pagate le tasse. Io non lo amo, no, lo rispetto, lo stimo. Sai, ti ricordi Pina di Fantozzi? Io no, perché la stima viene ancora prima del rispetto. Il rispetto si deve alla legge. Stimare una legge ingiusta è sbagliato. In questo dico rispetto. Legge. No, però perché apriranno forse o non si sa, nuove sale gioco d'azzardo. C'è l'Avvenire, dice anche che c'è una sanatoria bis per... Ti ricordi quelli centri dati che non erano collegati bene, quindi c'è una sanatoria. Insomma, bisogna fare cassa sul gioco. Ma è tutto strano. Del resto l'anno scorso il governo si è inventato così, improvvisamente ha detto ai concessionari dateci 500 milioni in più che stanno finendo di incassare per quest'anno. Cioè lo Stato è abituato a dettare legge. Lo Stato, diciamo, anzi, così, per incorrere al mercato ha cambiato l'aliquota di tassazione nel tempo. I vecchi giochi sono quelli con le aliquote più alte, quelli nuovi, che erano i legali, lo Stato per acchiappare alle aliquote più basse, invece i payout, il monte pagamenti a chi vince è più alto. Quindi lo Stato è pure un abile giocatore. È biscazziere ma abile giocatore, sbanca sempre. Cercheremo di capirlo con due ospiti, però è bizzarra questa cosa che si alimenta questo per le tasse e poi ci chiedono altre tasse per pagare i ludopatici, perché sono quindi tassa su tassa. Scusami, anche lì scopriamo che lo Stato è Jekyll e Hyde, cioè eccolo là. Va bene, parleremo di questo con voi, se volete 800 24 00 24, ma ci sono anche tanti temi, Oscar, che tornano, che noi abbiamo anche un po' anticipato, diciamo la verità, e che nella legge di stabilità tornano come un mantra. Uno è quello classico, il contante, la soglia del contante. Il Padoan al Sole 24 ha anche detto che ha cambiato idea, perché un anno e mezzo fa più o meno Padoan diceva questo sulla soglia del contante. Procedere a un progressivo abbassamento della soglia è motivata dall'esigenza di far emergere l'economia sommersa e alla necessità di aumentare la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie per contrastare il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, l'evasione e l'elusione fiscale. Cioè Oscar diceva quelli che sono le argomentazioni di chi oggi critica questo innalzamento della soglia. Che sono quelle tradizionali della sinistra, peraltro. Ma come mai avrà cambiato così idea? Sì, di aver cambiato idea per alcune cose che sono oggettive. Poi sull'interpretazione ovviamente ci si può dividere. Cioè il fatto che abbiamo potenziato i controlli telematici di tracciabilità. Ripeto, continuo a dire a chi non vuole sentirla questa canzone. Agli autonomi fanno i controlli sui prelievi in contante al bancomat. E se non hai il nome del beneficiario e gli scontrini come l'ha utilizzato, l'agenzia delle entrate ha una presunzione che quelli siano ricavi o fatturati. Invece non è così, e tant'è vero che è dovuta intervenire la Corte Costituzionale per dire dove vogliamo arrivare, quindi che una batteria di controlli nuovi ci siano è innegabile. I controlli ci sono, però oggi ti segnalo, Oscar, come gli ascoltatori, ho fatto la segna stampa, che anche il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti sul Fatto Quotidiano dice tutto ciò, cioè chi è che paga 1000 euro cash, 2000 euro cash, 3000 euro cash? In alcuni casi sicuramente anche la criminalità, il riciclaggio, in alcuni denaro. Casi immagino di sì, in altri no, però cioè questo fatto di considerare per voi la libertà come qualcosa di assolutamente trascurabile dà il segno dei tempi, cioè che i magistrati anticipino, perché io avrei capito se il procuratore ci portasse dei dati, cioè in grado di dire con il tetto noi abbiamo ottenuto questo contro il riciclaggio e contro l'evasione. No, sono considerazioni etiche che trascurano assolutamente la libertà dei mezzi di pagamento. Io ricordo solo a tutti che siamo il paese con l'82% della regolazione dei rapporti di pagamento con il liquido e con il maggior numero, insieme alla Grecia, di italiani che non hanno un rapporto bancario postale, l'11%. Continuiamo solo a cantare la canzone giustizialista, io continuerò a dire portatemi dati. Tra l'altro lo stesso procuratore dice sulla questione dell'incentivazione dell'uso delle carte, la carta elettronica, è il primo, lo stesso procuratore, che dice ma lì bisognerebbe abbassare il costo del loro utilizzo e quindi iniziare a fare i conti con le banche, e qui il capitolo si complica, quindi non c'è una ricetta semplice, facile. Per esempio in Portogallo sono intervenuti per legge su questa storia delle commissioni alle società che gestiscono il sistema di pagamento. Però tu quindi saresti d'accordo se si interviene per legge, si abbassano le commissioni, quindi si obbligano le banche a far pagare meno, a quel punto aumentare l'utilizzo della carta elettronica. Aumentare l'utilizzo della carta elettronica è un segno di civiltà, questo non c'è dubbio da questo punto di vista, perché rende più efficiente e più trasparente il sistema di pagamento, ci mancherebbe altro, io mica sono per il baratto, dico solo che questa cosa del contante, ripeto, rompe le scatole a chi rispetta la legge, i veri evasori, se ne avete un'idea, se ne fottono. Va bene, comunque se volete 800 24 00 24, e poi caro Oscar, c'è il canone, finalmente abbiamo scoperto come si pagherà, chi lo vorrà pagare, perché adesso bisogna dire così, e chi vorrà di pagarlo? Beh, si sono rimangiati anche l'idea della sanzione da 500 euro, è un governo ballerino, chi riterrà di volerlo pagare? Ma tu lo paghi il canone della Rai? Poi non te l'ho mai chiesto. Ohimè. Anch'io lo pago, ma guarda che io non sono felice di pagarlo. No, ma io considero che sia giusto combattere le tasse sbagliate, se no saremmo ancora a Luigi XIV. Se comunque non ti dico una cosa, fino a qualche anno fa non lo pagavo. Ieri abbia detto il presidente pentastellato, commissione della commissione vigilanza, e qui bisogna porsi il problema di non pagarlo, e politicamente è giusto. È giusto quello che ci ha detto ieri Salvini, fa molto discutere, perché però io Salvini lo ha detto che proprio fa la raccolta differenziata, gli arriva il bollettino e lo mette nella carta. Quello è disprezzo che non mi piace, però porre il problema di non pagare le tasse ingiuste, e la storia della libertà si è fatta così, e non so cosa dirti. Però perché il canone è considerato una delle tasse più ingiuste secondo te? Perché le altre bene o male gli italiani bene o male le pagano, il canone perché come vedi nella definizione il canone tassa, il canone dovrebbe essere una tariffa per un servizio ed è diventata una tassa, nella stessa definizione servizio, c'è un'ingiustizia profonda televisivo. No, è una tassa sugli apparecchi di ricezione, come questo sai. È vero, quindi l'ipocrisia più assoluta, la confusione di una tariffa in una tassa, e adesso una tariffa che è diventata tassa annegata in una nuova tariffa in bolletta. Arriverà così sei rate da 16,60 euro ogni due mesi nella bolletta. Questo è il modo in cui dovrete pagarla se riterrete di volerla pagare, per carità, se volete fare la differenziata, no, non fatelo con la bolletta, se no vi staccano. Vediamo, perché secondo me le impugnative ci saranno, io sono convinto che questa è una vicenda tutt'altro che chiusa. Può essere su questo ma sull'eroe Harry De Luca non vogliamo dire niente. Sull'eroe Harry De Luca vogliamo dire che Harry De Luca è stato assolto per aver detto la TAV va sabotata. Io ritengo che si sia sprecato del tempo come un processo inutile, cioè si anch'io. Può forse la procura poteva ricordarsi che esistono, che insomma i reati d'opinione è meglio non si perseguire. Può contrastare Harry De Luca col pensiero detto questo con lui le parole. Che si atteggia a Voltaire, no, che attacca tutta l'intellettualità italiana. Ma questa è una delle non... perversioni del processo. Ah, se ecco, tu lo, esatto, se tu lo metti nel processo, e poi lui totalmente giustamente... d'accordo. Dal punto di vista liberale, tutto d'accordo. Viva quello che ha scritto Marco Marisi sul Corriere. Insomma, c'è libertà di dire le fesserie in Italia. Sì. Lasciamo a lui. Per esempio, te ne voglio sottoporre una, l'ho trovata in rassegna stampa. Giorgio Cremaschi, lo conosci? Sì. Sindacalista della CGIL. Tantissimo. È andato a festeggiare lì a Bussoleno per l'assoluzione di De Luca e ha detto questo a proposito di chi lavora nei cantieri della TAV, quindi gli operai. Ha detto: non è vero che tutti i lavori sono uguali, c'è lavoro che dà dignità alle persone e lavoro asservito. Lo so, ma questo è una, ma servito è un'arma degli antagonisti. Ho capito, a che cosa? Ma del resto, se ai non potenti. Dicessero questo, come farebbero a giustificare i danni ai cantieri, cioè agli strumenti delle imprese e a chi lavora in quelle imprese? No, ma fammi capire con questo principio qual è il lavoro, qual è secondo Cremaschi il lavoro giusto, il lavoro, cioè uno che fa del pane è giusto. Per Giorgio Cremaschi quasi tutto lavoro dipendente è schiavitù, quindi che vuol dire? E l'antagonismo, no, io non condivido esattamente come te, però dico che la mia opinione è che ci deve essere una netta, un netto crinale, cioè un conto è argomentare, altro conto è chi c'ha qualcosa per cui sta devastando e sta facendo violenza a persone e cose va in galera, appunto. Questa è la mia, però è un'altra cosa. Sì, ma il lavoro a servito davvero mi sfugge. Si può discutere se in generale, come dici tu, tutto il lavoro vuol dire schiavitù, ma lavoro Giorgio che dà Cremaschi dignità e lavoro che invece dà servitù, ovvio, sono completamente d'accordo con te. È una cosa, una distinzione un po' bizzarra. Ma del resto, sai, le distinzioni bizzarre sono quelle del sindaco Marino di Roma che va dal procuratore grandissimo a dire che tutti gli atti che sono stati dati a chi chiedeva al pubblico accesso agli atti della sua segreteria depositati e lui dice no, sono falsi. La firma, però devo dire, Ignazio Marino è andato lì, allora adesso o è pazzo oppure è andato lì dal procuratore a dire guardi qui la mia firma, sì, e guardi la firma in calce, sì, a tutti i giustificativi, si vede a occhio nudo che è una firma diversa e che tutto quello che c'è scritto è diverso. Sì. Ma è la sua segreteria che ha depositato queste carte, mica un alieno che è sbarcato. Infatti ha incolpato la segreteria, non la segretaria, è la segreteria, cioè un insieme di persone. Cioè, voglio dire, una maniera per rendere ulteriormente credibile e autorevole la sua guida al Comune di Roma. Scherziamo, sì, cioè. E forse vuol dire aveva una segreteria non fedele. Non fedele, che rispondeva al PD. Che risponde? No, non lo so. No, la che risponde al PD l'hai detto tu. No, l'ho detto per paradosso, perché è una delle voci che gira dagli amici di Marino. Sai, quando Marino lanciato la Bettini per la primaria doveva dare una squadra, lui non aveva squadra di partito, e quindi gliel'hanno data a quelli che l'hanno lanciarono. Gliel'hanno data fallata. Lui dice esatto, rispondono agli altri e non rispondono a me. Del resto, sai, il Papa che invita Tarzan ad occupare le case, ma l'hai vista questa cosa? Sì, questo Papa Francesco, ma è sempre in possesso delle sue facoltà? Però... sì? Ah, addirittura, in realtà però non è, ma anche no, non lì è, c'è non una è, segreteria aspetta, che non lo consiglia. Aspetta, non è proprio il Papa in persona che ha scritto, sono queste lettere che arrivano dal Vaticano, di supporto, come dire, alle persone che fanno delle iniziative. A Tarzan l'occupatore di case. Sì, è vero, questo ma allora, ma la guarda che la differenza con l'invito al sabotaggio, cioè uno che straccia la proprietà privata, c'ha una fedina penale per reati appunto contro la proprietà, perché lo fa pubblicamente. Sì, questo è un attivista dell'occupazione di case. Comunale a Roma è stato. Il Papa dice vai. Occupiamo qualcosa che sia di proprietà di qualche congregazione vaticana. Guarda, scusa, ma non ho capito. Oggi Massimo Gramellini, questa l'ha detta la migliore sulla stampa, proprio a dire: per risolvere il problema che di Tarzan basterebbe infatti un po' di case romane sfitte di proprietà del Vaticano da dare a Tarzan, invece di mandargli per di una volta lei. Sono d'accordo col buonista Gramellini. Il buonista. Dai, sentiamo Andrea da Roma che ci ha chiamato. Andrea, buongiorno. Buongiorno, io sono presidente di una società, sì, che produce caffè. Questa questione dei 1.000 euro, quando è stata introdotta, a noi ci ha creato dei problemi enormi, perché noi esportiamo, abbiamo dei clienti in zone dove ci sono grosse restrizioni valutarie, per esempio la Libia, per fare un esempio. Queste persone venivano in Italia a pagare le loro fatture non per contrabbando, ma per merce regolarmente venduta. E la legge valutaria gli permette un po' a tutti di venire con 10.000 euro in tasca e poi vieni con tua moglie e vieni con 20.000 euro. E quindi loro venivano così e pagavano con contante. Venivano con i soldi perché non potevano fare il bonifico dalla Libia. Noi non potevamo accettarli questi soldi. Io le dico francamente, più di una volta li abbiamo accettati. La multa a cui noi saremmo sottoposti al 40% dell'importo indebitamente percepito, che è una cosa folle. No, ma no. Allora, poi però noi, la mia azienda, l'azienda che io dirigo, sta vicino a San Basilio, lei va lì e si prende una dose di cocaina senza fatica, siamo sulla Tiburtina, va lì con 10.000 euro in contanti, si ne gioca 100 lì a una di queste bische, quelle di cui parlavate voi, sì, e di cui parliamo, riesce con 9.900 euro in tasca, con un foglietto che lei li ha vinti lì, e quindi è pulito. No, ma Andrea, dopo... lei ci pone una problematica pratica, no, cioè una norma che valga bene per tutti, non può esistere una norma che sia assoluta, soprattutto quelle ideologiche come questa roba, fissiamo il tetto. Questo è il caso di un operatore, ma guarda che tantissimi di coloro che hanno a che fare con gli stranieri si trovano in queste condizioni. A Milano, non vorrei dirti, insomma, fa un giro in centro, in 10 minuti si fa spiegare che i russi pagano i Piemonte Napoleone, tutti, certo, gli stranieri che vengono qua, e che di fronte all'idea del 1.000 euro o altrimenti la segnalazione all'autorità riciclaggio, che viene poi segnalata a quelle dei loro paesi, con tutti i paesi con cui abbiamo i trattati bilaterali di cooperazione, quelli dicono: io per comprare una borsa qua vengo segnalato al mio antiriciclaggio. Ma voi siete matti? E guarda che è difficile spiegarglielo. Sì. No, ma è chiaro che è difficile spiegarlo. Comunque, Andrea, la ringraziamo per questa testimonianza diretta, insomma pratica, di uno che ha una società e che questo problema... Ma è ancora con noi? Con la Libia come va adesso? Andrea è ancora con noi? Andrea è ancora con noi? Con la Libia come va adesso? Perché la Libia si è fermata, purtroppo. Eh beh, immaginavo. Perché grazie a Sarkozy. Lei ha perso un po' di operazioni di politica estera. Ci ha fregato, a noi ci ha fregato. Immagino. Lo ringrazierò sempre, l'ungherese. E a questo proposito, come l'ungherese? Ma di origine. Ah, l'ungherese di origine. Bravo, Andrea. A proposito di Libia, ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori, perché oggi c'è questa enorme esercitazione militare nel Mediterraneo, che è la grande prova di questa missione in Libia, verso la quale, Alessandro, io mi auguro che l'Italia avrà il controllo militare. Sì, ma io mi auguro che ci abbiamo pensato bene, ecco, perché non è una cosa prima dei rischi, quando succederanno i guai, immagino che tu lo scopriremo dopo. Se uno gestisce un'operazione militare in Libia, in un teatro con come la Libia, qualche guaio ci può capitare. Però mi pare che la riflessione non ci sia. Ma gli italiani, armiamoci, partite. Insomma, allora diamo velocemente l'Oscar, perché dobbiamo andare in pubblicità. L'Oscar, veloce. And the Oscar goes to... velocissimamente a quel giudice che ha assolto un uomo di Treviso che per anni ha incassato la pensione della madre morta. Ah, non è lui. Al giudice, ovviamente, ironicamente. Era un Oscar ironico, denso di ironia, perché ha detto che questa persona non era lui tenuto a comunicare all'INPS che la madre era morta. Ho capito, però quando intascava la pensione lo sapeva che era morta, no? O se lo dimenticava nella speranza che fosse viva. Assolto. Allora, invece, tanto per sottolineare un'altra di queste aporie del partito giustizialista, pagato il canone, vi segnalo che oggi Repubblica fa un titolo in una pagina piena di ironia: ma ora la RAI pubblicherà gli stipendi dei dirigenti? Non c'è il punto di domanda, ce lo metto io. Ce l'hai messo tu fino a questo momento. No, penso di analizzare questo, non ce l'ha. Ma naturalmente io non ci credo, questo è il punto. Per privacy non ce lo dicono, capito? Loro hanno la privacy, mentre tu paghi in bolletta. Loro strapagati, senza tetti, hanno fatto un bond apposta per fare Marameo alla soglia, perché loro sono una bella azienda pubblica, e loro privacy. Quindi l'Oscar non ho capito a chi lo dai. A questo pezzo che sottolinea una delle tante belle aporie della RAE, per cui bisogna mettere il canone in bolletta. Allora, lo Stato cerca nuovi soldi dal gioco d'azzardo legalizzato, forse senza punto di domanda, dovevo farlo. Comunque su questo ci interroghiamo tra poco, dopo la pubblicità. State ascoltando un programma offerto da ADP, leader mondiale nella gestione del personale. Oscar, allora abbiamo tolto il punto di domanda: lo Stato cerca soldi con il gioco d'azzardo legalizzato. Questa è una certezza. Sentiamo un ascoltatore, volevo dare da Bergamo su questo, ma credo che sia caduta la linea. E allora interroghiamoci su questo, perché c'è un giallo nella legge di stabilità. Tu lo hai capito? Cioè, lo Stato vuole aprire nuovi punti di gioco d'azzardo legalizzato, sì o no? Lo Stato, dunque, anche nella bozza che è arrivata a noi tre giorni fa, c'era questa, l'ipotesi di questa norma. Chiariamoci, lo Stato becca col fisco dai concessionari una somma che da metà degli anni 2000 è passata dai 7 miliardi a oltre i 10 miliardi e ogni anno, negli ultimi anni, si inventa delle cose un po' strane. Per esempio, per l'anno in corso, con la legge di stabilità di fine anno, si inventò un prelievo straordinario aggiuntivo di 500 milioni uh-huh. e così via. E quindi, nell'ambito di queste norme di, in teoria, razionalizzazione, la delega c'era al sottosegretario Baretta, nella legge di stabilità compariva in effetti un altro miliardo. Un miliardo anche attraverso la selezione di questi 22.000 nuovi posti. Ma in teoria la cifra è questa, cioè la legge di stabilità, il governo vuole recuperare un miliardo dal gioco d'azzardo legalizzato. Il governo adesso smentisce, quindi fidarsi. Molte volte o forse è capitato, vuole guadagnarlo, cioè un miliardo la cifra, ma in altri modi, cioè non aumentando i punti. Un miliardo rimane. Quest'anno mi si è inventato la sovrattassa sul sistema di mezzo miliardo, per intenderci. In ogni caso, noi abbiamo due ospiti che sono Massimiliano Pucci, vicepresidente del Sistema Gioco Italia, cioè il sistema confindustriale del gioco d'azzardo legalizzato. Buongiorno Pucci. Buongiorno. Grazie di essere con noi. Così come abbiamo Maurizio Fiasco, sociologo esperto di questa tematica. Buongiorno Fiasco. Grazie, buongiorno. Tra l'altro ieri Gian Antonio Stella, caro Oscar, raccontava proprio l'articolo partendo dalla storia di Fiasco, dicendo: ma che stato è quello che premia con un'onorificenza del Quirinale il professor Fiasco, che si batte contro la ludopatia, il gioco d'azzardo legalizzato, le distorsioni, il gioco d'azzardo, e dall'altra parte aumenta. Siamo sempre lo Stato Jekyll. Lei, professor Fiasco, si è fatto questa domanda e si è dato una risposta? Sì, no, beh, non sono da Marzullo, però mettiamoci di nuovo il punto interrogativo. Lo Stato cerca, ma li trova questi soldi? Perché l'interrogativo bisogna mettercelo. Secondo me li cerca, ma non li trova, anzi li perde pure. Perché? Intanto correggiamo qualche numero. Non siamo passati da 7 a 10 miliardi, ma siamo passati da 10 miliardi a meno di 8. Il ricavato dell'imposta sul consumo dei giochi d'azzardo, perché mentre su tutti gli altri generi abbiamo un'imposta indiretta, cioè abbiamo l'IVA, le accise, eccetera, sui giochi abbiamo un'imposta che assorbe tutte le altre, si chiama prelievo erariale unico. Questo prelievo erariale unico ha un'aliquota differente gioco per gioco. Sì. Per esempio, sulle scommesse cosiddette virtuali, cioè che avvengono con un videogioco che ha sostituito le corse simulate dei cavalli a quelle degli ippodromi che hanno chiuso, questo è un particolare interessante, con la macellazione degli equini, lo Stato prende il 2 per mille. Cioè su un miliardo prende 20 milioni di prelievo erariale unico. Sulle slot machine, quelle che vediamo nei bar, lo Stato prende il 12,5, sull'otto prende circa il 35, tutta la massa dei giochi dà complessivamente un gettito che si aggira sui 7,8 miliardi netti, o meglio, all'ordo dei costi di amministrazione. Li ha visti i dati del primo semestre? Sì, ma più o meno confermano questo trend. Allora, siccome quando uno mi dice ma che no, sui dati... Aspetti, Giannino, abbia pazienza, su questo sono un po' puntuto io. Quando mi si dice... Accetto la puntura. Accetto la puntura. Allora, siccome nei dati del primo semestre sono introiti di quasi un miliardo... Ci mette anche le imposte dirette, l'IRPEG ci mette in questi 10? Sì. Questo è il punto. Allora, siccome queste entrate ci sono, io capisco che bisogna dire, lo Stato ce le rimette, perché la vostra tesi è... Perché poi a fronte di quello che prende, e voi dite prende meno di quello che prende, io sono per dire quello che prende. Giustamente dite. Va bene, non impicchiamoci alle cifre, ma solo per fare capire agli ascoltatori che non mi invento cifre. Sì. Detto questo, dall'altra parte voi dite ci sono poi molte spese per i fenomeni che vengono prodotti. Non entro nel merito, però detto questo. A me quello che colpisce dell'evoluzione nel tempo delle aliquote è che sui giochi vecchi tradizionali le aliquote sono altissime. Nel tempo, per acchiappare i diversi tipi di gioco, lo Stato ha avuto una strategia d'attacco fiscale, cioè aliquote bassissime, per capirci, per dire, per invogliare tutti, certo, venite nelle braccia legali dello Stato. E così è d'accordo anche lei su questo, no? Ma accantoniamo un attimo la questione di come si calcolano questi 10 miliardi, perché questi 10 miliardi comprendono l'imposta indiretta, quindi il prelievo erariale unico, e l'imposta ordinaria, che l'imposta diretta che si applica su tutte le attività economiche delle persone fisiche e delle persone giuridiche. che cosa è successo? È successo che una volta avevamo bassa frequenza di giochi, cioè pochi giochi che davano tanto. Nel tempo siamo passati altissima frequenza di giochi, sì, con gettito unitario sempre decrescente. Esatto. E quindi lo Stato deve continuare a buttare nuovi giochi nel mercato, per far giocare più gli italiani, li deve premiare di più. Ma come li premia? Qui è un particolare interessante dal punto di vista proprio dell'analisi economica. Nel 2004, per capirsi, anzi nel 94, per capirsi, quando si giocava circa un ottavo di quello che si gioca oggi, i premi superiori ai 500 euro, il milione netto, erano tutti sommati il doppio di quelli che vengono erogati oggi superiori ai 500 euro. Che cosa significa? Mm-hmm. Significa che il 75% del dei soldi giocati va a montepremi, sì, e questo montepremi viene frazionato per far vincere un po' tutti. Però Fiasco, un attimo, io vorrei capire da Massimiliano Pucci se almeno lei ha capito ci sono questi nuove sale, come le vogliamo chiamare, punti del gioco d'azzardo legalizzato, sì o no? Posso solo almeno intervenire su una cosa, perché sono 10 anni che parliamo di gioco. Maurizio dovrebbe sapere che il 12 e mezzo, che oggi è il 13, che in base alle proposte attuali diventa il 15, non sono le tasse del gioco, delle aziende del gioco, è quello che prende lo Stato. Sì. Poi le aziende del gioco pagano le tasse, è chiaro. Questo lo ha capito il dottor Giannino studiandolo. Noi stiamo parlando di gioco da 10 anni, speriamo di accantonarla definitivamente questa cosa e dire che paghiamo le tasse. Però ci aiuti a capire, lei che è del settore, allora, ci sono questi punti nuovi nella legge di stabilità? È una notizia importante che il governo sta smentendo. Io l'ho letta ieri sera, ha smentito. Io l'ho letta e ci sono, è una cosa di una gravità inaudita. Perché va e contro. Quante sono? Scusi, 22.000? Io ho qui uno specchietto, sono 22.000, è chiaro, non sono 22.000 sale nuove, sì, sono di rinnovo di concessioni, di cui quindi 14.000 già esistevano, esatto, 2.000 erano già state sanate, quindi andremo intorno ai 6-8.000 punti nuovi, ma nessuno ha detto, questa è una cosa particolare, perché poi il governo oramai ha deciso di legiferare a prescindere dal settore, quindi non conoscendo la materia, che questa gara anche per le sale vecchie andrà deserta in tutto il nord Italia, in regioni come la Puglia. Perché? Perché nessuno sa che noi da Lombardia, Liguria, sì, e alcune città del nord dobbiamo tirar fuori tutto. Il 1 gennaio 2017 non ci sarà più un gioco legale in Liguria, idem credo nel metà 2017 in Lombardia, quindi faccio fatica a pensare che l'imprenditore metta dei soldi su una gara sapendo che poi non può aprire nulla. Quindi lei dice, la notizia è che ci sono, le risulta. La notizia è grave anche perché risulta anche il contratto. No, ma il Presidente conferma che il testo che abbiamo ufficioso in mano c'è. A me risulta e non solo, mi risulta anche un ulteriore extragettito, al di là dei 500 milioni che avete citato prima, un ulteriore aumento di Preu del 2% per le macchine, che a questo punto, mi creda, neanche lo stiamo discutendo, perché siamo andati oltre ogni parametro. Un miliardo è la cifra che in legge di stabilità dovrebbe lo Stato vorrebbe prendere dal gioco d'azzardo legalizzato. Anno, noi dobbiamo pagare 300 milioni il 30 ottobre come tasse, il problema è questo, guardi. Beh, 200 milioni li avete già pagati con la prima rata. Abbiamo pagati 300, abbiamo la scadenza il 30 ottobre, ne abbiamo ulteriori 500 come stabilità per il 2016, più 2 punti d'aumento Preu. In sostanza, io qui posso fare un appello, perché noi siamo qui, sono 110.000 posti di lavoro. Lo Stato deve avere un coraggio, se vuole tenere questo gioco e evitare di tornare a prima del 2002, deve applicare la delega che aveva i principi più sani che esistevano. All'interno c'erano riconosciuti i diritti del giocatore, la razionalizzazione dell'offerta e tutto, altrimenti ci deve dire chiaramente di chiudere. Ammettiamo più il coraggio di chiudere un settore che lo ci sta tenendo. Insomma, l'idea prima si discuteva anche con Oscar Giannino, è che lo Stato mantiene questo settore, perché è un settore che poi porta soldi, però, no? Vedi, fiscali, Jekyll e Hyde, c'è la doppia strategia. Da una parte lo mantiene e anzi ogni anno si inventa qualcosa per incassare nuove, modo. Comprese nuove gare. Dall'altra parte poi deve fare la parte etica che dice no, ma come? Mettiamo le norme per restringere, per aumentare lo spazio, intere regioni leviamo. Allora capisci che lo Stato, io credo che il Presidente in realtà e il nostro, l'altro ospite, abbiano entrambi da punti di vista, chiedono una scelta coerente e chiara dallo Stato, chiaro, perché non si può stare col piede in due scarpe. Per esempio la scelta coerente, fiasco, non so se può essere questa, uno Stato che da una parte incentiva il gioco d'azzardo legalizzato e poi ci dice, e abbiamo scoperto da qualche anno che c'è una nuova malattia, la ludopatia, per cui ci chiedono anche le tasse per curare i ludopatici. Ecco, è un cortocircuito davvero incredibile, no Fiasco? È un cortocircuito perché il disturbo da gioco d'azzardo è un disturbo cronico, un disturbo serio, ma c'è una ipocrisia ulteriore. Se lei scorre tutto il corpus delle norme civili, amministrative, penali, non troverà mai l'espressione gioco d'azzardo. Anzi, troverà l'espressione gioco d'azzardo solo nel codice penale, perché nel nostro paese il gioco d'azzardo, formalmente così definito, è un reato. Questi che noi con un linguaggio naturale, con il linguaggio di tutti i giorni, chiamiamo gioco d'azzardo, in realtà sono chiamati giochi con alea composta in denaro. Praticamente sono un intrattenimento, sono considerati un intrattenimento come andare al cinema, alle giostre, al Luna Park, eccetera. Tanto è vero che a fare i controlli sono gli ispettori della SIAE, che dovrebbero verificare la regolarità delle operazioni di gioco. Allora, con un artificio linguistico, si è legittimato quello che ancora formalmente risulta vietato. Sì. E allora qui c'è una terza ipocrisia, quindi c'è un'ipocrisia nel messaggio del confine tra legale e illegale. Sì. C'è una seconda ipocrisia, poi voglio dire qualcosa anche all'amico Pucci, c'è una seconda ipocrisia su diffondere un consumo che ha poi una nocività sulla salute. E poi c'è una terza ipocrisia, qui voglio, sembra strano, per fare una lancia a favore dei poveri gestori, anche ai danni dei gestori, perché qui giocano i giocatori, giocano i gestori che scommettono, come ci ha raccontato Pucci, giocano i concessionari che hanno anticipato, dovranno anticipare i soldi allo Stato, giocano le banche che hanno prestato i soldi ai concessionari che sono tutti con i bilanci in rosso, giocano poi i risparmiatori che acquistano i titoli azionari, i derivati sui concessionari del gioco, e quindi poi alla fine giochiamo tutti. No, su questo sì. Si fermi qui, però non c'è tempo per replicare. Sì. Pucci, magari il tema, visto che scopriamo qualcosa di più. C'è anche la libertà degli italiani, che a milioni giocano più che in tutti gli altri paesi. No, cioè, difendiamo anche la loro libertà. No, ma la libertà, però effettivamente... Però il problema è il costo che... No, su questo sono d'accordo. Il costo sociale, anche poi che si ripercuote su tutti, no? Per la ludopatia. Ci dobbiamo fermare, caro Oscar Giannino. Ringrazio Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli in redazione e Peter Bescapè in regia. A domani, continuate con Radio 24.